Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, eccoci di nuovo in onda. Siamo Rosina, Pina e Lucilla, che sarei io, del coordinamento lesbiche romane. Ci stavate aspettando, eh? E noi morivamo dalla voglia di parlare con voi. Ma passiamo alle notizie. Dalla nostra inviata speciale in Ciociaria apprendiamo, dalla provincia con stupore, cose che capitano. Che c'è di strano se un ragazzo corteggia una ragazza? Che c'è di strano se lei lo porta a casa per conoscere i genitori? Così va il mondo. Che c'è di strano se il papà poliziotto prende informazioni sul futuro genero per verificare se il giovane pretendente è davvero un onesto lavoratore? Fin qui tutto secondo le regole, anche se un po' antiquate. Ma i conti cominciano a non tornare quando, durante le indagini, il futuro suocero scopre che non solo il giovane non fa il muratore, ma non è neppure un ragazzo. Ed ecco, dalle colonne del Messaggero, cronaca di Frosinone, di mercoledì 10 dicembre, il resoconto dei fatti. Finge di essere maschio per amore, condannata. Pontecorvo, aveva documenti falsi. All'anagrafe di Pontecorvo è registrata col nome di Monica, ma dentro si sente un uomo. Voleva convincere anche la sua fidanzata, una studentessa romana di 16 anni, che aveva cominciato a nutrire qualche dubbio. Per allontanare ogni sospetto, allora aveva esibito la patente di guida, sulla quale risultava in modo chiaro che si chiamava Angelo ed era di sesso maschile. Ma quella patente era stata truccata. Apparteneva ad Angelo Bla, un operaio del suo paese. Entrambi sono finiti di fronte al pretore ieri mattina, accusati di falsificazione di documenti e sostituzione di persona. A carico di Monica, anche l'accusa di avere rubato la Fiat Ritmo ai genitori della ragazza, di averli diffamati e di avere minacciato la giovane. A scoprire che Monica non è un uomo, era stato il papà dell'allora fidanzata, poliziotto in servizio in un commissariato della capitale. Voleva assicurarsi che il ragazzo di sua figlia fosse un bravo giovane, ma dopo una serie di controlli aveva accertato innanzitutto che non faceva il muratore, infine che non era nemmeno un maschio. Strilli e denunce. In principio i carabinieri avevano ipotizzato contro Monica anche reati di violenza carnale ed atti di libidine sulla fidanzata, ma la Procura della Repubblica non li ha più inseriti nei capi di imputazione perché, guarda caso, mancavano le prove di eventuali rapporti sessuali. Il processo è stato celebrato a porte chiuse su richiesta dei difensori. Il pretore ha assolto Angelo Bla e condannato Monica ad un anno e due mesi per i soli reati legati ai documenti. Che dire? Fortunatamente in Italia essere lesbiche non è un reato, ma contraffare i documenti sì. Allora Monica, coraggio, fidanzati pure, ma da donna a donna. Auguri! Voglio uno scandalo, voglio uno scandalo, l'ultimo scandalo, voglio uno scandalo io con te e tutti i figli tuoi. Era Scandalo di Gianna Nannini, appropriata, no? Beh, ciao a tutte, io sono Rosina e sono qui per informarvi su alcuni avvenimenti avvenuti nei giorni scorsi. Più precisamente sto parlando dei secondi giochi islamici che si sono tenuti 2 settimane fa a Teheran. Si tratta di una sorta di olimpiade di seconda classe riservata solo alle donne. È uno strano separatismo questo, ovviamente, un separatismo imposto. Sono donne le atlete, donne le arbitre e solo donne nel pubblico, tutte rigorosamente in chador. Tutte donne che nessuna potrà mai vedere, infatti la manifestazione non è stata documentata in alcun modo. La televisione, i fotografi, i giornali sono stati banditi dai luoghi della competizione, in linea con la legge islamica, secondo la quale le donne non hanno controllo alcuno sul proprio corpo. Non possono mostrarsi in pubblico, né mostrare il proprio viso, le mani, né quant'altro offenderebbe la pubblica morale. Questi giochi che si sono svolti al coperto proprio per evitare contatti con gli uomini, nella loro parvenza di democrazia, in realtà non fanno altro che sottolineare nuovamente e con maggiore vigore lo stato di insopportabile prostrazione e subordinazione delle donne islamiche rispetto alle pressioni di una società eteropatriarcale che le vuole ancora una volta ridotte a poco più che animali senza diritti, a fantasmi senza volto e senza voce, come dimostra ad esempio la storia delle donne afghane. Noi lesbiche ci sentiamo vicine alle donne islamiche e ci auguriamo che esse riescano a spezzare, una volta per tutte, il dominio che sono costrette a subire per mano di chi si arroga il diritto di avere su di loro potere assoluto. È però evidente che se l'aiuto della comunità internazionale si limiterà a quanto finora è stato fatto dall'ONU, la strada sarà sicuramente molto difficile. Fanno fuori, donna, cosa succederà? è Mia Martini, la grande Mia Martini con Donna. Bene, vi ricordiamo che siete all'ascolto della trasmissione autogestita È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane, all'interno dello spazio femminista di Radio Onda Rossa, 87-900 MHz. Se volete contattare il coordinamento lesbiche romane, potete farlo ogni mercoledì dalle 19 alle 21 al numero di telefono 68-64-201. Lì c'è anche una segreteria telefonica e potete anche mandarci un fax. E arrivederci, a presto. Ciao, sono Pina, dai microfoni di Radio Onda Rossa, e sono qui per informarvi che si è concluso a Monopoli l'8 dicembre il quarto incontro dei gruppi e delle lesbiche separatiste. Innanzitutto un grosso ringraziamento va a colei che ha reso possibile questo incontro, al quale erano presenti lesbiche provenienti da Roma, Bari, Brescia e Bologna, Pina delle Desiderande, nonché alla bravissima Rosi, presidente del gruppo. Il lavoro è partito dal significato che ciascuno dava al separatismo, senza che peraltro nessuna avesse la presunzione di darne una definizione esaustiva, né tantomeno di aver capito finalmente la strategia del separatismo del 2000. E si è sviluppato via via, sino ad esprimere, sulla scorta di quanto già emerso nel precedente incontro a Bologna, l'intenzionalità comune delle lesbiche di lavorare su quattro progetti principali, e cioè controinformazione, economia, salute e formazione, ritenuti il primo passo per la costruzione di un nuovo mondo. Ovviamente i progetti sono aperti a tutte le lesbiche separatiste che siano interessate a lavorare su di essi. A tale scopo si chiariscono i contenuti principali di ciascuno. Controinformazione si prefigge a breve e lungo termine come obiettivo di dare voce e diffondere la cultura e le politiche del lesbismo separatista attraverso lo strumento di una rivista lesbica, prima trimestrale e successivamente mensile, la cui distribuzione dovrebbe partire dal 1 gennaio 99. Passiamo al secondo progetto, economia, i cui obiettivi a breve e lungo termine sono quelli di potenziare una mentalità imprenditoriale lesbica, investire sulle lesbiche e con le lesbiche, cambiare l'idea di economia. Attività previste a breve termine: un elenco nazionale sulla realtà imprenditoriali e professionali femminili, ricerca e informatizzazione delle leggi nazionali e comunitarie. A lungo termine l'attività prevede l'analisi dei dati raccolti, nonché la costituzione di un gruppo come società di servizi e consulenza. Strumenti utilizzabili sono banca dati risorse, indagini di mercato, pubblicità, presentazione itinerante. Il progetto è operativo da subito. Invece il progetto sulla salute si prefigge come obiettivi soggette di salute, formazione sulla specificità lesbica dei formatori e delle formatrici del Servizio Sanitario Nazionale. Attività prevista a breve termine: mappa delle professionalità, gruppi interni al movimento di discussione sulla salute, mentre a lungo termine ci si prefigge la creazione di un opuscolo con un capitolo sull'inseminazione artificiale. Anche questo progetto è operativo da subito. E veniamo ora all'ultimo progetto, formazione, che ha come obiettivo a breve e lungo termine quello di fornire alle lesbiche le parole per raccontare la propria esperienza, creazione di un linguaggio comune. Attività prevista a breve termine: seminari di 2-3 giorni ogni 3-4 mesi per 20-40 donne su lesbica, una sola parola, tanti modi per vivere, le relazioni pericolose tra lesbiche, sessualità lesbica, visibilità è un'occasione o è paura. A lungo termine l'attività prevista è la formazione per le lesbiche che vogliono formare un gruppo, weekend sui rapporti nei gruppi, lesbian studies. Questo progetto è operativo da subito. Mare, come stai? Mi chiamava, mi cercava. Ossacci che mi cercava, ma io non potevo venire. Ma mo stoccavo i mari, stoccavo, sono tornata, stoccavo. Allora che è? Ma, come vuoi più bene? Io ti conosco a te, Mara, sono cresciuta con te. Come sei bella, vai, vieni. Tu guarda e subito mi sento pulita, mi sento lavata. Mara, io ti voglio essere qualche cosa che ti piace veramente, come hai fatto tu con me. Ti ricordo? Tanto tempo fa, hai già avuto la finestra, ci stavi tu, o cieli delle stelle. A lui non mancava niente, ma era tutto come si stava là con me. Ma tu capisci, Mario, proprio con me. E allora per un momento, è stato soltanto un momento, io mi sono sentita felice, ma proprio felice. Piena, non mi mancava niente. Come quando si innamorate non ti manca niente. E fai paura perché non ti manca niente. Lina Sastri non ha bisogno di nessuna presentazione. E andiamo con un altro pezzo. Dal solito mondo, e io aggiungerei, dal mondo, e io aggiungerei appunto dal solito mondo. A proposito di She Wright e del suo intervenire su questioni erotiche non meglio identificate, aggiungo io, ho letto un articolo su D, la Repubblica delle Donne, del 24 novembre scorso. La Wright sostiene che possono esistere i cosiddetti legami del terzo tipo, rispondendo alla domanda: può esistere un altro rapporto tra donne oltre all'amicizia e alla relazione amorosa? Nell'articolo vengono fatte due constatazioni. La prima è che nel mondo occidentale esistono più donne single che rifiutano, perché di questo si tratta, di sposarsi. Evidentemente esigono altro dalla loro vita. La seconda è che in tutto il mondo le donne tendono a solidarizzare tra di loro per affinità, necessità o quant'altro. La Wright giudica il contatto fisico, l'intimità, l'abbracciarsi, il dormire insieme, lo scegliersi come referenti, il condividere passione, affetto, interesse, non necessariamente indice di relazione amorosa, che lei peraltro nomina come omosessuale, ma che io preferisco indicare come lesbica. Ma ipotizza il nascere di una nuova istituzione, come lei stessa la definisce, in cui tutte queste caratteristiche confluiscano e ridefiniscano le relazioni tra donne. Addirittura le donne potrebbero superare quell'atteggiamento psicologico, badate bene, che da sempre le mette le une contro le altre, rivali, a causa dell'uomo, ovviamente da sposare. Come se l'imperativo di dividere i sottomessi per meglio dominarli dia come risultato un semplice atteggiamento psicologico da sconfitti o da servi. Insomma, pur di non mettere in discussione l'eterosessualità obbligatoria come istituzione eteropatriarcale che impone alle donne un'unica possibilità, quella di essere orientate verso gli uomini e quindi funzionali ad un'organizzazione sociale sessista dall'economia alla politica e alla cultura, si preferisce desessualizzare le relazioni tra donne per depotenziarle e svuotarle delle loro componente rivoluzionaria, capace questa sì di trasformare il mondo. Ovviamente, anch'io credo sia possibile avere relazioni d'amicizia dove la componente sessuale sia esclusa, ma non per questo ipotizzo che invece debba essere necessariamente esclusa, mentre credo fortemente nella possibilità di alleanze femminili, a partire dal considerare le donne referenti primarie. Il rifiuto del matrimonio è una delle forme di resistenza al patriarcato messo in atto nei secoli dalle donne, come sostiene lucidamente Adrienne Rich nel suo saggio Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, che potrete trovare tradotto sulla rivista DVF numero 23-24 del 1985. Ancora molto attuale, mentre datato e stereotipato mi sembra che sia quanto sostiene la Haidt nel suo Legami del terzo tipo. Cosa ci stai guadagnando, Shir? Cosa ti danno in cambio? You're feeling happy now. Bravissima Skin degli Skankenenses, che si sono rivelati in Italia grazie al film di Catherine Bigelow, Strange Days. Il pezzo che avete ascoltato si chiama Hedonism ed è tratto dall'album Stush. Ve lo abbiamo fatto ascoltare perché la giovane Skin si è dichiaratamente lesbica. Gli appuntamenti. Il 9 e 10 gennaio si terrà a Roma la sesta edizione di Donne allo sbaraglio, presso il Teatro Agorà in Via della Penitenza, sito nello stabile del Buon Pastore. Tutte le donne che vorranno partecipare con canzoni, ballette, barzellette, scenette possono farlo. L'ingresso naturalmente è riservato alle sole donne. Per ulteriori informazioni rivolgersi al bar delle Sorellastre in via San Francesco di Sales 1, sempre al Buon Pastore. Inoltre, il 10 e 11 gennaio si terrà a Bologna l'incontro del Forum delle Donne Lesbiche per discutere sui temi e l'organizzazione della terza settimana lesbica. Per informazioni, rivolgersi alla segreteria del Forum in via San Zenobi 54 50 129 Firenze oppure telefonare allo 055 47 65 57 e chiedere di Valeria, Elena o Moira. Siete ancora con il coordinamento Lesbiche Romane. La trasmissione che state ascoltando, è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, va in onda ogni martedì sugli 87 900 MHz di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che se volete contattarci potete farlo telefonando allo 06 68 64 201 ogni mercoledì dalle 19 alle 21. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, my possess a trap. It's physical, only logical. E sulle note di questa splendida canzone di Tina Turner, noi vorremmo salutarvi, noi, le libere voci lesbiche. Vi vogliamo salutare con una poesia tratta dal libro, appunto, Poesie di Patrizia Cavalli, una poesia che a noi piace e che quindi vi proponiamo. Stai ferma a capotavola, grassa di vino, inorgoglita delle mie lacrime, fai da lezione, ma sono io che piango e non mi muovo. Tu alza, fa qualcosa, togli i piatti. There's a name for it, there's a phrase that fits, but whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do, got to do with it? Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo. ricordiamo che questa trasmissione sarà replicata martedì 6 gennaio. Un saluto a tutte e grazie.